20 Il tuo Cristo è ebreo, la tua democrazia è greca. La tua scrittura è latina, i tuoi numeri sono arabi. La tua auto è giapponese, il tuo caffè è brasiliano. Il tuo orologio è svizzero e il tuo Walkman è coreano. La tua pizza è italiana, la tua camicia è hawaiana. Le tue vacanze sono turche, tunisine, marocchine. Cittadino del mondo, non rimproverare al tuo vicino di essere straniero. I vostri multirazziali Cremona, Strazzullo, Parisi, mi sta stretto lo stivale. Ah, che bella musica. Bella, bella. Che bella anche musica. Il messaggio, visto il messaggio umanitario abbiamo lasciato. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da mi sta stretto lo stivale, Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. Come stai, Alessio? Tutto a posto? Questa settimana bene, bene, piuttosto bene. Come ogni settimana, ogni volta ti dico bene. Non è che può succedere qualcosa di così grave. Abbiamo avuto un po' di commenti, lo sai? Sì? Sul sito? Sì, qualcuno negativo. Qualcuno negativo? Sì. Ma negativo? Vabbè, dopo tanti commenti positivi. Un attimo, prima di partire devo salutare in regia il nostro mitico Corrado Parisi. Ciao Corrado, come stai? Buonasera! Sta bene anche questa volta. Finché è uguale, sta benissimo. Sta bene. Andiamo avanti, raccontami un po' questi commenti, raccontami. Allora niente, c'è un, penso, un amico della nostra radio che ci scrive che questo programma, cito testualmente... Come si chiama? Fabio. Ah, ciao Fabio. Lui ci scrive: che cagata di programma e che cagata di radio, ma andate a lavorare invece di fare i figli di papà. Mi sento un po' offeso, sinceramente. Minchia, io non voglio spendere parole, no? Come grazie, mai? Ok. Come no, mai? Perché... il nervoso Riccardo Cremona che non ha parole per un ascoltatore. Sì, lo so, esigente. Lo so, però che devo dire a uno che mi dice fa cacare, andate a lavorare figli di papà. Infatti si è creato un piccolo dibattito dopo. Che devo dire? Cioè, uno che parla senza sapere le cose, è proprio aria fritta, cioè spreco proprio fiato. Insomma, Fabio, non ti conosciamo. Cioè, io non lo conosco, cioè tu non mi conosci e pare di me. Cioè, io potrei dire Fabio è un cretino. No, non lo puoi dire, non lo conosciamo. Cioè, adesso tu potresti dire che Fabio è un cretino. No, non lo dico. Ma non lo puoi dire. No. Il nostro DJ potrebbe dire che Fabio è un cretino. E però... chi non alza le mani è un cretino! Vedo che tutti alziamo però le migliora, mani. Migliora, sì. Riesce sempre è di un più... un po' più legato alla realtà. Un po' più legato alla realtà. Quindi io ti dico grazie, fai quello che vuoi... Ti assicuro che tutti noi qui lavoriamo. Ma poi no? Fabio, scusami. Allora, come direbbe Nanni Moretti, che cagata. No, con la C, no, la G. Siamo a Napoli, non a Milano. Quindi hai che ragione. Cagata, per favore. Correggiamola, no, cagata. Anche sulla grammatica. Dai, per favore, ti prego. Vabbè, che devo dirti? Noi tutti qua non stiamo a ciurlarci il manico dalla mattina alla sera, te lo assicuro. Abbiamo anche il tempo per fare la radio. Ringrazio, sono fortunato ad avere questo tempo. Ci piace, ci divertiamo. Comunque, se vuoi parlare di cose serie, Fabio, vieni in radio, costruiamo una puntata su di te. Mamma che... mia. Non venire in radio, Fabio. Pare che Fabio si sveglia alle 6 del mattino e che quindi a noi dispiace. No, certo, mi dispiace. Sei mattina se sì. Vuole venire a fare un discorso e vuole parlare dei problemi, che non ci è sono benvenuto, problemi. Viene il benvenuto. Così lo conosciamo. Puntata, così lo conosciamo. E poi prenderemo le conseguenze. E magari gli diciamo che è anche simpatico. Forse, non forse, credo. Uno forse. Che mi dica vabbè, queste cose. Dai, andiamo avanti. Andiamo avanti, partiamo con la prima notizia. Prima sì. Notizia del giorno si intitola Marijuana alle galline. Ah. C'è mai un bel titolo questo. Sì, bel titolo, ora ti racconto. Allora, stiamo parlando di un 82enne di Pergine, paesino della Pergine. Val Sì, paesino della Val Sugana. È stato praticamente processato per aver coltivato 40 piante di marijuana. 40 piante di marijuana, sì. Sono tantissime. 58 kg di foglie. Mamma. Nel giardino. Ti dico che quando l'hanno arrestato lui si è giustificato, ascolta come, le usavo come mangime per le mie galline. Ma è la verità. Sì, si dice che in quelle zone si utilizza veramente la marijuana per dare la mangina alle galline. Tra l'altro immagino queste galline che barcollano, collassano. Marijuana, quella, cioè, degli quella, spinelli. Proprio quella. Quella degli spinelli. La vanelli, piselli, quella là. Ti dico che... Ma serve, cioè, effettivamente... Non lo so, però io so anche che nella zona, tipo ai maiali invece, si dà la cocaina. Ah, è una cosa così, una pratica, una sì, pratica. E si ricordina. Dice anche che alle pecore ci fanno proprio le pere di eroina. Sì. Un'escalation. Hai mai visto una pecora, che ne so, abbattuta? Paura e delirio in Val Sugana. Bravo, fanno si fanno i festini, le pecore, sì. Così. Diciamo che in Val Sugana si drogano gli animali e non le persone. Tra l'altro il PM del caso, sì. Indovina come si chiama? Guarda il mondo quanto è rotondo. Come no, si chiama? Non posso neanche lontanamente immaginare. Il PM si chiama Marco Gallina. Non ci posso credere. E secondo me adesso che tipo l'imputato gli darà anche lui del mangime marijuana. Magari gli piace, che ne so. Quindi, allora, questa roba che lui fa si può effettivamente fumare oppure serve soltanto per le galline? No, in teoria questa roba si fuma, perché io non ho mai sentito che diamo la marijuana alle galline. Però si dice che si fa così. Questa è marijuana, quella là che va in galera. Cioè marijuana è illegale. Lui la dà alle galline. Le galline che effetti hanno? Ma credo che le galline cominciano a fare uova multicolori, cominciano a impazzire. Ma già la gallina secondo me non è proprio un animale intelligente. Però forse ne hanno vista una volare di gallina dopo che hanno preso la marijuana come cibo. Una notizia interessante. Beh, interessante, fa un po' ridere che nel nostro paese uno viene incriminato perché dà da mangiare la marijuana alle galline. Avrà avuto i suoi motivi, magari. Sì, stranissimo. Magari funziona davvero, chi lo sa. Ma che cosa serve? Magari producono di più uova, tra l'altro fanno uova stupefacenti. No, magari capito, quando poi mangi le uova è finita dopo. Nuovo magari tipo di droga, effetti, la uova stupefacente. Ti rendi vabbè, facciamo la volare. La uova non c'è male. La uova non c'è male. La uova non c'è male. Grazie adesso che correggimi. Ah, facciamo volare la notizia. Vola la notizia. Okay. Allora, questa è una notizia serissima, secondo me. Dimmi. Allora, è tornato libero Mehmet Ali Ajkh, qualcosa del genere, non so come si possa pronunciare. Poi magari chiediamo un pochettino a qualcuno di correggerci, persone che studiano queste linea. Cose. Chi è? In ogni caso, il lupo grigio. Ah, ok. Chiamiamolo lupo grigio. Lupo grigio turco, tra l'altro. Ah, turco. Il lupo grigio turco, che il 13 maggio del 1981 ha sparato a Papa Giovanni Paolo II. Ah, è quello dell'attentato al Papa. Sì. Praticamente il famoso colpo di pistola che colpì il Papa. Da quel giorno c'è la Papa mobile. Sì, sì. Sai quanto tempo si è fatto in carcere? Quanto? 29 anni. Mi sembra giusto. Adesso ha 52 anni. Mi sembra giusto. Uno spara al Papa, non è che adesso. Ha fatto una qui. Serie di annunci interessantissimi. Cosa ha detto? Ma si è proclamato. Dopo aver annunciato la fine del mondo, lui si è proclamato Gesù Eterno. Come Gesù Eterno? Gesù Eterno. E l'abbiamo fatto uscire uno che si dichiara Gesù. Ha sparato al Papa e dice che è Gesù Eterno, sì. Lui esce. Ma cosa significa Gesù Eterno? Non me lo chiedere. Cioè Gesù Eterno. Vaneggiava. Se l'ha fatto di marijuana come le galline. Probabilmente. Ma Gesù Eterno è proprio. Cioè, mi sembra che ha fatto altre dichiarazioni. Vogliamo dirle agli ascoltatori perché sono bellissime. Ricordiamo che questo uomo è stato liberato e ha fatto queste dichiarazioni. E lui adesso è libero. Allora, dopo queste dichiarazioni, leggo anche nella notizia, si sono posti tantissimi interrogativi sul suo stato mentale. Mi sembra anche giusto. Gesù Eterno, vabbè, dici sono il Gesù Eterno. Già. Ma magari gliela fai passare. Ma che gli fai passare? Sono Gesù Eterno. 29 anni in galera. Ma alla fine. Puoi dirlo. Ma come puoi dirlo? Potresti. No, non potresti. Poi che ha detto più? Ha detto di essere il Messia, che è legato al discorso Gesù del Gesù Eterno, legato al discorso del Gesù Eterno, ma soprattutto ha detto che la Trinità non esiste. E questo è un, diciamo, un pensiero. Sì, un poi pensiero ci può essere, sì. Quasi teologico. Un pensiero politico, quindi teologico, ci può stare una teoria. E poi? Ha continuato dicendo, io non sono Dio. Mi sembra giusto. Io non sono figlio di Dio. Qua pure ci siamo. Ripete, io sono Gesù Eterno. Ecco, non figlio cioè, però. No. Sono Gesù adottato. Eterno. Esatto. Cioè, il sacro verbo rinato con ossa e carne. Lui? Sì, lui. Mi sembra un po' mitomane. Ha sparato al Papa. Quindi non è che adesso ci accorgiamo che è mitomane. E poi? Sono il servo superiore eterno di Dio. Ancora? Non esiste una cosa come la Trinità. Di nuovo, si ripete. Si ripete, è pazzo, vaneggia. Poi continua, pare abbia scritto una serie di articoli, tra l'altro. E, lo Spirito Santo è solo un angelo creato da Dio. Pure. La Trinità, di nuovo, non esiste. Dichiaro che è arrivata dalla fine del mondo. Pure lui. Tutto il mondo sarà distrutto. Madonna, entro questo secolo. Io tocco ferro. Forse si riferisce alla storia del, no, dei Maya. Quello è 2012. Dice che secondo me sta delira ancora. Io non mi fido di uno che dice che è Gesù Eterno. E poi dice che ogni uomo morirà entro questo secolo. Io tocco ferro. C'è ogni uomo. Poi la bomba, C'è la bomba. Poi alla c'è fine bomba. La bomba. E spara. La Bibbia è piena di errori. E questo ci può essere. Ci può essere. Il liberalismo filologicamente, tutto il discorso. È anche un po' teologico lui. Però io scriverò la Bibbia perfetta. Cioè Chiudetelo, rinchiudetelo subito. Soprattutto vabbè, c'è da dire che se lui provasse a sparare al Papa adesso, penso che il nostro Papa caccerebbe una carabina. Ratzinger è un supereroe. Lo ucciderebbe subito. Non lo abbatte niente. Lo colpirebbe qua al centro della testa. Si spaccano le gambe tutti i suoi cardinali, tutti i suoi aiutanti. Ma lui è tedesco e lo ucciderebbe. Non lo abbatte niente. Niente. Vabbè, comunque un pazzo, un delirante. Andiamo avanti. E da un pazzo passiamo a un altro pazzo. Una persona. Cioè, c'è chi lo apprezza, però. Sì, so che c'è chi lo apprezza. Di chi stiamo parlando? Fabrizio Corona. Nazionale, Corona non perdona. È stato prosciolto Fabrizio Corona a Potenza. L'ho sentito. E torna all'attacco e dice: le mie parole e tutte le battaglie che ho combattuto fino ad adesso non sono state battaglie perse. Mamma mia, un crociato. L'ha detto tra l'altro ad una nota trasmissione Mattino 5, non so se hai visto Mattino 5. Bellissima, come no, no. È una cosa una terribile, cosa seria, una cosa seria, no. È una cosa terribile. E dice, continua: ora comincia la mia piccola rivincita perché è stata fatta la prima giustizia. Ora. Che crociato che è lui contro il portatore di giustizia nel nostro paese, Fabrizio Corona. Ricordiamo che è stato in carcere, è ancora in atto più processi verso di lui. Questo è l'unico che ha superato perché è stato assolto dal reato di associazione a delinquere. Mi sembra ovvio, essendo l'unico indagato, associazione a delinquere non ci può essere. Tra le altre cose. E lui porta la giustizia. Bravo Fabrizio Corona, tutti come te dovremmo essere. No, ma... comunque, la cosa interessante è che lui praticamente ormai viene preso, buttato in galera, liberato, sì, viene accusato praticamente quanto? Una volta ogni 3 mesi? Sì, lui in galera passa. E lui così. Ogni volta dice: questa volta è stata fatta giustizia, questa volta farò pagare. Ma a chi fai pagare? Ma falla finita. Ti stanno cambiando anche i PM che ti fanno i processi. Qua. Falla finita. Portatore di giustizia. Poi è bello che vince e la giustizia c'è. Perde e la giustizia non c'è. Chiaro. È terribile questa cosa. Cioè, e poi aggiunge: oggi dimmi. Sono tranquillo perché devo stare tranquillo. Ah, beh. Cioè, devo stare tranquillo. Perché altrimenti qua succede un patapan, 15-18. Ma vi assicuro che nei prossimi giorni non sarò assolutamente tranquillo. Mamma mia. Inizia di nuovo a fare fotografie. Questo fotografa tutti adesso. Devo stare attento. Scendi di casa, non lo so se tu rientri nel... No, io non credo che mi faccia foto. Frequenta e soprattutto fa fotografie a persone famose dopo averle, capito, fatte rientrare nella sua cerchia di amicizie. Fabrizio, siamo amici, poi un pomeriggio scendo, so che sei con la tua ragazza e ti faccio le fotografie. Fabrizio, il mio profilo migliore è il destro, grazie. Il tuo? Okay. No, io non ho profili. Sono famoso per essere un uomo primo di profilo, sono schiacciato. Sì. Quindi un Carlino. Scherzi, guarda che è una cosa che... Sì, una mi spiace brutta, per te. Me la porto sì. dietro da... No, però non ti demoralizzare, non fa niente. Fammi chiedere un attimo al nostro DJ qual è il suo profilo. DJ, qual è il tuo profilo migliore? Buonasera! Non credo che non abbia profili migliori neanche lui, cioè non ho... Comunque, non tu so hai capito come funziona la sua storia d'amore con quel pezzo di figliola che c'ha come moglie? Belen? No. Nina Morric. Ah, è vero, cioè, non sono lui molto... in questo momento diciamo che si trastulla Belen, l'avrei vista sicuramente perché è nuda su tutto il palinsesto televisivo. Sì, ma soprattutto in quel programma di calcio si vede a un certo punto un programma di calcio quello. No, un programma, una pubblicità durante un programma di calcio, fa un movimento pericoloso. So che accendo la televisione e vedo Belen nuda, la sicurezza, infatti sono felice perché le certezze ci devono essere, Belen nuda ovunque. Anche perché è una bella figliola, diciamo la verità. No, sì, questo cioè, sicuramente. Beato lui, tra l'altro. E sul passato, Fabrizio Corona dice: ho messo una pietra sopra e da questa vittoria a Potenza vuole ripartire. Io non voglio giustificazioni e pago quello che devo pagare. Ci credo. Fino al momento del mio arresto, io ero un ragazzo normale che faceva una vita normale. Normalissimo. Allora, prendi quanto? Penso 10.000 euro sì. ad ospitata in discoteca, sì. Ragazzo normale. Cioè, vai a lavorare, come Fabio, dice Fabio. Se t'acchiappa il nostro Fabio commentatore proprio, che ti combina. È finita. Vai a lavorare, ti dice. E dice: è un ragazzo che faceva una vita normale, che poteva aver commesso qualche piccolo reato. Cioè, perché tutti allora, ragazzi guidi normali, senza patente, diciamo. E va bene. E abbiamo una pistola, e va bene. Ma soprattutto ricatti le persone. È normale. Io lo faccio tutti i giorni. Scendo di casa e ricatto il mio salumiere. Una piccola evasione fiscale. Che in Italia penso faccia l'85% della popolazione. E che fai? Non ce la metti una piccola evasione fiscale? No. E non ce la mettiamo. E mettiamoci una piccola evasione fiscale. Giusto che stiamo parlando di noi guadagnare un sacco di soldi. Quindi la piccola evasione fiscale saranno di milioni di euro. È un ragazzo normale. La dichiarazione, la bomba anche di sì. questo, un poco come il nostro caro amico di prima, è questa: ma fino a quel momento ero vergine. Come ha spiegato? Sono uscito dal carcere ed è successo di tutto, dalla pistola ai soldi falsi alla corruzione a pubblico ufficiale. Bravo. Cioè praticamente prima era qualche reta, soltanto qualche evasione fiscale, qualche no. Poi siamo buttati sul penale. E poi siamo buttati così. Corrompiamo dei magistrati, usiamo soldi falsi. Ti ricordi che hanno trovato un sacco di soldi falsi in macchina? Ma che ci fai con i soldi falsi? Cioè tra l'altro sei indagato. Dove tutti i soldi falsi non è che puoi dire no. Non sono miei. Sono soldi falsi. Ce li hai addosso. Stai pagando un benzinaio. Perché lui è un ragazzo normale. È un ragazzo normale. Ma poi, secondo me è anche un bravo ragazzo. Quindi sono io anormale e sono felice di esserlo. Grazie Corona per la tua normalità. Oh, scappa Corò. Fuggi perché c'è Fabio. Ti fa un culo così. Perché tu Fabio, non ti svegli alle 6 del mattino. Fabio sveglia alle 6 del mattino. Sta pure abbastanza. Te viene a chiappa un diolietto. Perché tu stai dormendo in questo periodo. E passiamo a un'altra notizia, Alessio. Una notizia che mi preme. Allora quando ti preme è un guaio. No, non è un guaio, è una cosa importante, mi preme questa notizia, importantissima. Siamo in attualità, naturalmente, sì. Stiamo parlando di un artigiano trentino di 60 anni. Sì, forse l'ho sentito. Ecco, che è stato condannato dal tribunale di Bergamo a pagare gli alimenti alla figlia 32enne. Caratteristica della figlia 32enne è che da 8 anni fuori corso all'università. 32 anni. Lei 8 non anni si è giustificata corso. In nessun modo? No, non si è giustificata lei. Non so abbiamo che... informazioni. No, non si è giustificata. Che come ti giustifichi uno che 8 anni fuori corso e vuoi ancora i soldi da tuo padre? Magari fa qualcosa altro. Non lo so, magari uno sport a livello agonistico. Agonistico e tu non riesci a studiare? Lascia l'università, cara. 8 anni, lascia l'università. Poi, tra l'altro, avvisiamola che abbiamo Fabio a piede libero. Attenzione, che c'è Fabio, il nostro lavoratore, che viene alle 6 di mattina. C'ha il tempo di venire lì su al Bergamo, nel freddo e nella neve, e ti insegna sia la filosofia, perché Fabio è uno che sicuramente la filosofia lo sa perché lui lavora, 100%. Perché non è un figlio di papà. E in più ti fa laureare a 110 lode in filosofia, la nuova Kant dei giorni nostri. E in più ti fa pure lavorare. Guarda, te lo dico. Il problema è che c'ha soltanto un quarto d'ora di tempo. Sì, perché lui lavora. Che comunque alle 6 e mezza. Attacca giù. No, l'attacca subito. Dalle 6 un quarto. Un quarto d'ora per arrivare su. Un quarto d'ora per spiegare qualcosa. Poi se ne va a casa. Perché lui non è un figlio di papà. Che se ne va a casa? Va a lavorare. Va a spaccare comunque, le pietre. Tu ragazza 8 anni fuori corso, stai attenta. Lascia l'università. Non lo so. Nasconditi. Studia. Con Fabrizio Corona. Studia. Da qualche parte. Studia oppure lascia famiglia. Cioè che vi fa 8 anni? Cioè sei proprio una, come diceva Padoa-Schioppa, sei una bamboccione. Bamboccione. Sei una bamboccione. 32 anni, vuoi pure i soldi del povero artigiano 60enne. Ho capito che deve pagare 12.000 euro adesso. Mamma mia. A questa che non fa un cazzo dalla mattina alla sera. Però dai. Perché non fai un cazzo? 32 anni, 8 anni fuori corso, se non ha nulla, non fai un cazzo, fatelo dire. Sì, scusami sì, la parola, sì. Però basta, cioè solo sì. Così posso essere finito. Sì. E tra l'altro è entrato nella notizia. Sì. Con i piedini piccoli piccoli un nostro onorevole che faceva tic tic tic. Tu sai di chi sto parlando, sai benissimo, abbiamo parlato. Adesso potrei fare un po' il figo e dirti un tuo onorevole perché non mi rappresenta mamma affatto. Mamma mia quanto sei figo, guarda. E comunque lui è? L'onorevole Brunetta. Brunetta. Il self-made man della politica italiana. Non puoi fare a meno italiana. Di parlare di Brunetta. L'ottavo nano, colui che si è fatto da solo. E niente, è arrivato Brunetta coi piedini sul trespolo, è sceso. Io non sono tanto d'accordo a queste battute su Brunetta. Gli diamo importanza, poi lui si arrabbia e dice domani mattina in televisione. Secondo me Fabio e Brunetta si conoscono. Gli occhietti un po' da pazzo. Sì, ma quello, quello, non le vedi che faccia? Cioè, quello ti azzana le caviglie come i chihuahua e non ti molla dietro più. I tendini. Dietro il tendine da Achille. Come i chihuahua. No, non lo so, a me spaventa un po' parlare di Brunetta. Non dai, so. Non fa niente, è piccolo, è tenero, lascialo perdere, che deve fare? È piccolino, lasciamo perdere. Comunque ha detto una provocazione. Fabio secondo te lo stima, quindi. Fabio e Brunetta si sono questo è uno di quei cortocircuiti del nostro tempo classico. Cioè Brunetta e Fabio praticamente la pensano allo stesso modo. Sì, tra l'altro, cioè pensa un poco. Pensi, ma purtroppo che Brunetta è al governo e la pensa come Fabio. Infatti, questo è abbastanza preoccupante. E comunque lui ha detto, riguardo a questa notizia, commentandola, fuori di casa a 18 anni per legge. Era una provocazione, dai, capiamolo, ogni tanto. Allora, già è tutto nervoso, no? Sì. Per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Sì, perché è piccolo. Poi se no lo lasciamo sfogare un pochettino. Ho capito, però non dire queste cose. Fuori a 18 anni per dove vado? Dove vado? Io devo andare a lavorare, come dice Fabio. Se tu mi cacci di casa a 18 anni, a Rovaga, a chiedere l'elemosina, no. Dove vado? Questo sì. Cioè, stiamo parlando, è pericoloso sta cosa. Brunè, rilassati un po', cioè che dobbiamo fare? Tra l'altro riguardo alla notizia, io dopo chiamerò il nostro Ascanio Mumolo. Ma quindi praticamente questa trasmissione per me sta diventando un incubo. Parliamo dai. Di cose che non mi piacciono, invitiamo gente che odio, la prossima volta la fai tu. Senti, Ascanio Mumolo va chiamato perché voglio sapere se lui era un bamboccione. Secondo te? Guarda, non mi esprimo. Non ti esprimi. Secondo me quello rubava le macchine a 4 anni. Le rubava e poi le rivendeva. Le rubava e le rivendeva. Imprenditore com'è? Concessionaria. Sì, imprenditore ovviamente. Sì, non ruba a fine se stesso, ma per aprire una piccola impresa. Sicuramente. E niente, abbiamo finito con le nostre primo blocco di notizie. Ora mettiamo il solito nostro pezzo musicale. Chi mettiamo va oggi? Benissimo. Mettiamo Mario Romano. Chi è? Allora, diciamo innanzitutto che abbiamo cambiato un pochettino la linea del programma riguardo la musica e manderemo autori emergenti indipendenti, diciamo indipendenti e li mandiamo perché comunque ci fa piacere. Pubblicità fa crescere comunque la musica anche non per forza. Lui si chiama Mario Romano, è un chitarrista ed anche un compositore, secondo me bravissimo. Perfetto. E il pezzo che mandiamo è Se Resta. Se Resta. Ciao, a dopo. Thank you. Mi è piaciuto. Complimenti per la scelta. Secondo me veramente bravissimo. Sì, questo. Molto bravo, molto bravo. Sicuramente poi ospiteremo qualche altro suo pezzo. Poi vediamo volentieri di ospitarlo anche in programma. Bravo. Così lo intervistiamo. Vogliamo dare qualche contatto di Mario Romano? Sì, assolutamente. myspace.com/quartierijazz Mario Romano. Insomma, andate poi lo linkiamo anche sul sito, così lo andate. Sì, ascoltatelo perché secondo me ce n'è. Diciamo che ce n'è. Ce n'è. Sì. E ora partiamo con una cosa che tu non volevi, ma io voglio. Chiameremo Ascanio Mummolo. Chiamiamo Ascanio Mummolo e parleremo del caso. Io cerco di limitare il più possibile i miei interventi perché... Tu stai tranquillo, appianate le vostre divergenze. Abbassiamo un attimo la musica in regia. Squilla. Sta squillando Alessio. Speriamo che risponda. È un peccato se risponde. No, no, speriamo che risponda. Ho delle domande importanti da fare. Pronto? Pronto. Chi è? Come chi è? Ascanio Mummolo, siamo Radio 2010, Alessio Strazzullo e Riccardo Gamone. Salve Ascanio. Ah, buonasera, scusate un attimo. Michela, Michela, senti, hai segnato il numero di quella. Con chi sta parlando? Sì, scusate, sì. La roba di lavoro. Sì, perfetto, perfetto, sì, sì. Vuoi anche, sì, buttalo direttamente, grazie. Chissà di cosa sta parlando. Ciao, ciao. Pronto? Buonasera, dicevo. Ah, buonasera Ascanio, come sta? Beh, un po' acciaccato però. Che è successo? No, sono andato a sciare, sono un po' caduto. Ah, sì? Sì? La scia o vado lo snowboard? Veramente io uso lo slittino, poi con la motoslitta vado sopra. Ah, lei slittino e motoslitta, basta sì, così. Sì, mica sono un cretino io. Per aiutare la natura con la motoslitta, eh? Ma che cazzo ne fotti? Ho detto pure abbattere un po' di alberi per fare un po' più di posto per le slitte, però. Un parcheggio su una montagna le vuole fare, immagino. No, no, no. Io volevo fare un hotel, sopra. Sempre. Un mummolo invernale. Non proprio. Non proprio? No, no, no. Va bene, andiamo. Si sarebbe chiamato Montagnella Mummo. Montagnella Mummo. Sì. Il nome è cattivante, io direi mi piace, mi piace, mi Oppure piace. Oppure la baracca del Mummolo. La baracca del Mummolo è più bello, sì, complimenti. Sì. Montagna? Sì, sì, proprio sopra, tipo che ne so, Monte Pratello. Monte Pratello. Sopra Monte Pratello, sa. Ah, quindi la sua intenzione è spostarsi anche sull'ambito, diciamo così, delle vacanze invernali. Diciamo non lo escludo. Ah, non lo escludo. Lei ha aperto ogni... un posto diverso. Cioè, sono andato a mangiare in una baita, ma si mangiava veramente di schifo. Queste salsicce, Dio santo. Ma se io voglio un'altra cosa, sì, se io ti chiedo un piatto di gnocchi, me ne devi dare. O una tagliata fine di culetta, me la devi dare. Ha ragione, ha ragione. La tagliata fine di culetta in montagna, chi è che non la vuole? No. Chi è che non la vuole, Alessia? Va bene, io l'ho chiamata come al solito per chiedere la sua opinione. Per rompermi? No, no, che no, per rompere? No, no, per rompere. No, no, non volevo dire questo, stavo dicendo sempre alla segretaria. Ah, sì, facciamo finta di non aver capito, Alessia. Niente, volevo farle chiedere un'opinione. Niente, dica. L'argomento del giorno sono i bamboccioni. Che sarebbero i bambini chiatti? No, quali bambini chiatti? Ma che dice? Sapete, quelli ho visti un paio l'altro giorno, quelli brutti. Ma i bambini sono baffutelli, cioè, no, non sono mai chiatti. I bambini sono sempre belli, signora Scala. Dipende, dipende, cioè ci saranno delle persone, proprio, cioè, proprio tu le vedi e dici no, figa, sei troppo chiatto, cioè, troppo grasso. Sono che cazzo li date a mangiare? Calmo, pane e sugna. Calmo, calmo. Non bisogna, cioè, ha un po' di fibre. Il bambino deve anche andare in bagno, deve cacciare le proprie feci. No, ma non parliamo di queste cose. No, perché sennò diventa una palla enorme di merda. No, come il bambino una palla di merda? Ma noi li possiamo far rotolare giù per la montagna e facciamo il bambino più grosso che arriva prima giù. Questo nuovo sport, sport sì, me. All'Olimpiadi, bambini di merda che rotolano. Sì, sì. La corsa del mummolo. La corsa del mummolo. Chi vince un premio, un piccolo mummolo in miniatura. No, anche se fuori, cazzo. Prendo i soldi per queste cose. Ah, neanche. No, lei sponsor è terribile. Pagheranno. Lei è terribile, tra l'altro un linguaggio scurrile, scurrile, scurrile. È genuino, non è scurrile, è genuino. Senta. No, per favore. Ci blocchiamo sul nascere. Sì, blocchiamo sul nascere, sì, questa, sì. Ormai so che non vi amate assolutamente e non è un problema d'altro. Faccia di culo anche. No, no, no, che faccia di culo. Di vabbè, andiamo avanti. La mia domanda è sui bamboccioni. Però se lo vedo ti faccio un culo grosso quanto una capanna, quanto un mummolo. Io per questo non voglio invitarlo, per le parolacce. Le parolacce sono un problema. Culo non è una parolaccia. Ha ragione, culo non è una parolaccia. Se dice un cazzo figa. No, no, no, no, no, no, le sappiamo. Ho fatto un esempio, ho fatto un esempio. Le sappiamo. Va bene, non si può. Mi faccia fare la domanda. I bamboccioni sono quei ragazzi che rimangono a casa con i genitori nonostante abbiano raggiunto un'età matura, diciamo 30 anni. I cretini, insomma. No, i bamboccioni. I cretini. No, i bamboccioni, non mi faccia dire cose che in realtà non voglio se dire. Se tu stai a casa con i tuoi genitori fino a 30 anni, sei un cretino, non hai voglia di vivere, quindi si chiamano i cretini. Un po' ha ragione, non voglio offendere. Date a fanculo e morite tu. No, come morire? Vedi, perché da una considerazione giusta, poi devono morire. Arrivare, devono morire. diciamo che... Allora, che contributo danno alla società dei grassoni di 30 perché anni, perché grasso. Così saranno, seduti su una poltrona dove... Mamma, mi fai un toast, hai capito? Alza quel culo grasso, vattelo a fare da solo, oppure scendi, vai al mercato, compra il prosciutto, compra il pane, torna a casa e fatelo, Dio santo! Ha ragione, sì, c'è sì. Da dire che ha ragione. Un po' di autonomia devono avere questi ragazzi, un poco, no? Solo un poco... Cazzo, almeno andate in palestra, dimagrite, Dio santo. Vabbè, ma la questione è perché non è facile per noi ragazzi allontanarci dai nostri genitori, perché non abbiamo ancora indipendenza economica. Ma noi ragazzi chi, scusate? No, voi. I bamboccioni, cioè diciamo così, i bamboccioni è un fenomeno perché noi ragazzi è difficile trovare uno sbocco lavorativo subito come facevano i nostri genitori. Ma se non ci provi neanche, perché papà arriva a fine settimana e ti dà 2 euro... Questo tipo, è vero. Ma non so ci quanto sono le tariffe che danno adesso. Quale tariffe? Ma lei, Ascanio Mummolo, è stato mai un bamboccione? Bella domanda, bamboccione. Io personalmente a 14 anni i miei genitori, filare via. A 14 anni? Lei doveva andare via, noi genitori ma via. Ma perché io dovevo andare via? Quella casa è intestata a me nel futuro. Sì. Allora ho detto... Anticipiamo i tempi, datemi la casa, andatevene a fare il culo. Lei ha cacciato i suoi genitori di casa a 14 anni? Sì, perché... Allora, innanzitutto, io già a 12 anni... Ho iniziato a fare i miei piccoli soldi stessi. L'avevo detto prima. Ma non credo, prima, non credo detto. Come dicevi tu. Come ha fatto. Come li facevi i soldi a 12 anni? È stato semplicissimo. Mi ho dica. Inventato il telepass per il bagno. Il telepass per il bagno? Sì. Cioè? Ho pensato, cos'è la cosa che si usa di più in casa? Il bagno. Sì. Allora, se io monto un telepass sopra al bagno... Sì. E io lo do uno che se lo devo tenere a vita ogni persona della casa, tranne mie ovette, perché sono quello che l'ha inventato... Ogni volta che passo, tac, 70 cioè, centesimi. Lei faceva pagare ogni pisciata a suo padre? Sì. Come sì? Sì. Suo padre doveva pisciare, magari a una certa età, diciamo che comunque... E infatti ho giocato su quello. Ha giocato su quello, sulla prostata. Insomma, è un mostro. Cioè, è un mostro. Lei è un mostro. Senta, lei a 15 anni aveva già 47.000 euro? 47.000 euro. Le aveva. È un mostro ricco, ma è un mostro. Non è ricco, è intelligenza. Guardi, come no, che... Come fa a non essere intelligente uno che fa pagare il padre per pisciare? Mi sembra giusto. Per urinare, scusate il termine. E quindi... il pacco di pasta, poi il doppio abbiamo, ovviamente. Il pacco di pasta pure? Sì. Cioè, lei faceva pagare anche la pasta alla... È ovvio. Ma come è ovvio? Sono affittuari a casa mia. Ma come affittuari? Lei ha 14 anni, come affittuari a casa sua? La casa è intestata a me. Sì, perché i suoi genitori gentilmente hanno pensato al suo futuro e hanno... No, stupidamente, non puoi... scusa, tu intestesti mai una casa a un bambino di 14 anni? No, loro l'hanno fatta. Sì, ma loro non sanno che questo bambino di 14 anni è Satana, non lo sanno. Ma non è Satana, è proprio un discorso imprenditoriale, proprio, capito? Cioè... Io ho visto che si poteva fare i soldi. Ora ho fatto la media, due persone l'affitto verrà a fare intorno ai 1.000-1.500 euro. Due persone. Un attimo, lei faceva pagare l'affitto ai suoi genitori. Sì, ovviamente non era in lire, era in cioè non era in euro, era in lire. Ho capito, l'affitto ai suoi genitori. Sì. Cioè le hanno raccontato le favole, i suoi genitori. Ma le... che cazzo me ne fotte, a me c'era la televisione. Ma come c'è la televisione? Amore di papà, amore di mamma, niente. Amore di che? Guarda, io sono disarmato riguardo a queste dichiarazioni. Quindi lei non è mai stato bamboccione. I suoi genitori li ha cacciati via di casa. Sì, li ho cacciati via. Così? Sì. E mo dove stanno? Ah, che cazzo ne so. Sapevo che un mese fa io gli ho dato una baracca a un mummolo e ho fatti vivere lì dentro. Ah, quindi... però un mummolo è bello grande, un mummolo. Un mummolo con i suoi mummoli. Sì, ma non è che tutto loro. Una stanza del mummolo. Una stanza del mummolo è per i suoi genitori. Vabbè, sì. Comunque li ha... Chi diciamo... ci vive nelle altre stanze? Le altre persone, scusate. I mummoli sono alberghi. Ma loro pagano la stanza d'albergo? A metà, perché mia mamma lavora in cucina. Come? Fa lavorare sua mamma nel suo mummo? Aveva chiesto lei, ha detto devo cucinare qualcuno. Ha detto vaffanculo a cucinare. Ma no? Come? Cioè lei ha cacciato i suoi genitori da 13 anni, quindi questi sono un sacco di tempo che stanno in questo mummolo, lavorano nel mummolo e lei ci guadagna sopra, tra l'altro, su questa cosa. Ma ci mancherebbe. Io non so che dire, alle volte... Io sto zitto, guarda, no, io sto zitto. Tu rischi parecchio se parli. E quindi lei ha cacciato i suoi genitori, stanno nel mummolo, non se ne è fatto un cazzo. Scusate, caso. Sono meglio io che a 14 anni ho fatto i soldi? O quei grassoni che stanno davanti all'Xbox con i calli sulle dita e non fare un cazzo? A bere, a scrocco dei genitori, no. E non fare niente. Allora, se mio figlio viene vicino a me e a 30 anni mi giro e lo trovo seduto sopra il divano, io lo prendo a calci nel culo. No, ma è suo e figlio. E lo caccio via. Sangue del suo sangue. E lo faccio andare a vivere a casa di quel ricchione che sta parlando all'altra parte del microfono. No, siamo andati oltre. Lei siamo sta a casa davvero adesso. Allora, quanti anni ha? Prima domanda. Quanti anni ha? Per cortesia, stiamo andando oltre. Si calmi. Le ho fatto una domanda, però. Sì. Quanti anni tiene? Però lei non lei può. Quanti allora, anni lei fa? Digli gli anni. Perché mi risponde sì, un attimo solo, in una maniera lei, diversa? Perché lei mi ha dato del ricchione. Non è un problema, ma è un brutto termine offensivo. Non scusa, per me. Gay offensivo. O diversamente abile? No, che diversamente abile? Diversamente abile? Abbiamo parlato l'altra volta. No, non sono è un problema essere gay o diversamente no, abile. Però, no. Però ha usato un termine brutto che può offendere qualcuno. Può offendere qualcuno. Tra l'altro, io so, perché stamattina abbiamo letto un bellissimo commento di un nostro amico Fabio, che dice che noi dovremmo andare tutti quanti a lavorare. Lei è cosa giusto, ne pensa? È giusto, anche se però, cioè, questo lavora? Non lo sappia. Sì, dice che si sveglia alle 6 del mattino. Lei a che ora si sveglia? Che cazzo di lavoro fa? Coltivare che so, le verdure? Può essere un lavoro comunque, perché non è un lavoro coltivare le verdure. Retribuito male però. È un lavoro. Lei a che ora si sveglia la mattina per lavorare? Lei è lavoratore? Io mi sveglio presto. Che ora? L'una e mezza. Come presto l'una e mezza? Sì, è ovvio. Ho un'azienda. E quando si sveglia tardi? Quando mi sveglio tardi? No, direttamente la sera. L'una e mezza, però di notte. Ah, di notte? Perché significa che ho fatto le 7 e le 8 il giorno prima. Cioè, lei non vive praticamente durante il pomeriggio, non vive. Il pomeriggio? No. Non esiste il pomeriggio per la Scagno Mumolo. Non si fa le più hour il pomeriggio. Ah, capito. La Scagno Mumolo si sveglia all'una e mezza del mattino perché lui si sveglia presto. Sì, a volte è capitato, mi sono dovuto svegliare alle 11, ma congestioni, diciamo così. Come? Problemi con congestioni. Poveretto, si è svegliato presto quella mattina. Comunque, ho 23 anni per rispondere alla sua domanda. Buttati nel cesso. No, eccolo no. Qua. Non dovevi rispondere, allora, non dovevi rispondere. Era trabocchetto. Non si può avere a che fare. Lei dorme con i suoi genitori? No. Non dorme con i suoi genitori? Ho una stanza a casa dei miei genitori. Ah, ecco. Però non ecco dorme con i suoi genitori. Ci crede? Ci credo. Sono alto anche un po'. Cioè, sono ingombrante. Vabbè, allora mi dica che lei è un cretino. Perché io lo sto dicendo, no. Dorme nel letto dei suoi genitori. Dorme sotto lo stesso tetto. Sì, certamente. E quindi è un bamboccione. Aia. Allora, in teoria sì. In teoria sì. In teoria solo. In pratica no. Vabbè, per favore, chiudiamo questa teatrina. No, per cortesia. Sto cercando di mettere un attimo i puntini su. No, io sono impotente. Lei sta cercando di punzecchiare il mio collega. Lasciamo perdere questo. Sono impotente proprio di fronte adesso, anche nella vita. No, allora qua entriamo nel personale. No, adesso qua non risponde. Non risponde. Non dare soddisfazione. Ascanio, per favore, le chiedo di moderare i termini. Sappiamo le cosa pensa di Alessio. Stiamo parlando di lei, della sua vita, sia dei bamboccioni. Ha qualche messaggio da dare a questi ragazzi che non lasciano le case prima di chiudere? Qualche messaggio? Ne ho un paio, però mi limiterò solo a uno, se vuole lo faccio anche in maniera un po' più educata. Il microfono è aperto solo per lei. Distensivo. Cari ragazzi, oramai vi dovrò chiamare adulti, perché se avete 30 anni è inutile, posso darvi anche del voi, del lei, come volete. Secondo me, scendere dalle spalle dei propri genitori, anche a livello economico, è anche una soddisfazione personale. Giusto. Scendere e andarsi a comprare un orologio, la cosa più semplice, è anche bene a se stesso. Poi, Dio santo, vi dovete alzare e andare a scrivere in palestra? No. Fate attività fisica. Ma che perché c'entra? Secondo me, grassi e buoni, puzzate da far schifo. No. È fissato. Tenete il lardo ovunque. No, secondo fissato. Me, se alzate un rotolo da uno all'altro, c'è anche il nero. Quindi no. Prendevi pure. Schifo, che schifo. Che se sto per vomitare. Dai. Lei doveva dare un messaggio. Pensate io a pensare a queste persone. Uscite, puzzate. Ma no, perché puzzano. Volete fai scopare lavorare. Una ragazza? No. E volete scoparla senza no. pagare? Basta. Chiudiamolo. Grazie a Scagno Mumolo. È un argomento che io non riesco proprio. Vedo che proprio tra l'altro ha detto mio di figlio cosa? Tiene sì. 14 anni. Come si chiama suo figlio? Mio figlio è Torino. È Torino, bel nome. Un bel nome. Ma sì. È Torino è il nomignolo oppure si chiama proprio Torino? No, è Torino. Poi ci sta ovviamente cioè io ho altri due figli. Ah. Sì. Ci vuoi dire i nomi? Giovanna d'Arco la figlia. Ma come Giovanna d'Arco? Non è un nome, cioè è un nome ma non è utilizzabile. Giovanna d'Arco Mummolo si chiama. Giovanna d'Arco Mummolo, sì. Bello, prevedo bellissimo. Grandi cose per lei, per questo è sì, una vampata. Sì. No, darà fuoco all'Italia. Darà fuoco all'Italia, per vendetta, Giovanna d'Arco. Sì, è e Temistocle. Temistocle. Dove l'ha letto? Ma che nomi semplici che ha scelto. Temistocle era mio padre, brutto stronzo. Adesso hai pescato proprio il jolly. Mi dispiace. Quindi, mi dispiace per suo padre. Mi lasci dire era, mi dispiace. Ha scelto dei nomi sobri proprio. Proprio molto sobri. E Torino in confronto è un fortunato. Il cane si chiama Jonathan, se le interessa. Jonathan. Classico nome per un cane. Jonathan. Sì, Jonathan. Sì. Vabbè, nomi sobri. Sua moglie? Mia moglie, Maria. Maria. Purtroppo non gliel'ho scelto io, quindi... Come l'avrebbe chiamata? Come voleva che sua moglie si fosse... lei come la chiama nei come la momenti chiama? Intimi? Vabbè, facciamo un po' di gossip. Facciamo un po' di gossip. Chiamo cazzo le fotte ancora. Ha ragione. Perché mi risponde così male? Perché ma chiedi come... risponde bene, a me mi risponde sempre così, mettendo qualche parolaccia, sempre questo cazzo, allora, fotte. Che cavolo ve ne frega voi, come chiamo così io mia moglie? Eccolo qua, per fare un pochettino di gossip. Ma gossip di che? Ha ragione, che dobbiamo chiamarla? Che gossip è? Vabbè, non ce lo dica, non fa niente. Andiamo avanti. Ascanemum, la ringraziamo vivacemente di questa cosa. E va bene così. Ma non lo so. Che cosa? La vedo titubante, vuole dire qualcos'altro? È giusto per farmi un po' farmi capire come la penso io. Mi dica. Ma voi l'avrei chiamata Ascania. Come Ascania? Ma è il suo nome? È il suo nome Ascania. È bellissimo però, se permettete. Cioè, lei direbbe... Pensate, il mio nome è femminile. Ma, no, a me non Ascania. Sono... Ascania. Oddio. Quasi una divinità greca. Ho quasi paura al nome. Lei la chiama così, Ascania. Durante... Ascania. Così, a casa. Sì, sì. Mi faccio un esempio. Ascania, preparami un caffè. Come lo dici? Ascania. Così. Ascania. Ti rendi conto tu a casa Mummolo che clima che c'è? Con la musica sottofondo. Ascania, preparami un caffè. È un pazzo. È un pazzo, io... Però, permettete, bello. No, non è bello. Ascania è un nome di merda. Alessio, cioè, è terribile Ascania. A me fa ridere questa storia. Me ne sono accorto. Non rida. È bellissimo. Ascania. Ma perché devi dirlo sempre così? Non c'è un modo per dirlo normale. No, perché io se avessi scritto, che ne so, l'Iliade, una Ascania, ce l'avrei messo. Cioè, figurati, avrebbe messo Ascania nell'Iliade. Quest'uomo è in piena delirio di onnipotenza, tra l'altro. Va bene, io mi sa che adesso è il momento di chiudere. Grazie per tutti i suoi buoni consigli. Ha dato anche dei consigli ai bamboccioni, non di farli uscire di casa, ma di farli dimagrire, perché lei c'ha questo cruccio. E la ringraziamo. Chissà se Fabio è chiatto, ma chissà se lo Fabio, sto chiedendo da un nostro, paio di minuti, cioè. Il nostro commentatore è chiatto. Ma schifo se sei chiatto. Ecco, fa schifo. No, si calmi. Diciamo che è magro. Perché lavora, si sveglia alle 6 del mattino, quindi è uno che fatica. Un annuncio pubblico? Mica. Se vi sta nascendo un figlio in questo momento ed è femmina, chiamatela Ascania. No, la faccia finita. Vabbè, Ascania è bella, non è che... Vabbè, chi vuole chiamare? Scriverò una storia. Pure. Sì, sì. Vabbè. Non vediamo l'ora. Guarda, o proprio tu, voi. Ascania. Basta. Che guardi il tuo amore, no. Che si chiama Ascanio. Ha scritto una novella per sua moglie, praticamente. Sì, no, però, perché mia moglie si chiama Maria, purtroppo, quindi... Ma lei veramente ha odiato sua moglie perché si chiama Maria? Io l'ho proposto di andarsi a cambiare il nome. E lei giustamente ha detto no, perché Ascania non è caso. Giustamente di che cosa? Perché se lei fosse femmina, mi piacerebbe chiamare Ascania. Con sincerità? No. Allora sì. Non mi spacco il culo. Ah, ecco. No, Ascania non mi piace, però capisco che lei questa enfasi. Vabbè, chiudiamo così. Grazie mille, grazie per le sue opinioni e idee. Adesso chiudiamo. Grazie, arrivederci e buona giornata. Arrivederci. Ascania! E anche questa è andata adesso. Purtroppo è andata. Dai, siamo riusciti a portare a casa la telefonata a Scaramumolo, che non è mai facile, ma mai facile. Cerchiamo per la prossima puntata di cambiare un po', per favore, perché veramente non lo sopporto. A me piace assai. Beh, prima di andare avanti, dimmi. Abbiamo un promo da mandare, sì. un promo musicale, sì, di un gruppo, il Revenants Quartet, sì. Che nostri amici, lo diciamo, non sì, ci vergogniamo di questa amici, cosa. Sì. E, che avremo il 6 febbraio suonano all'Anificio, quindi questo è un piccolo promo per un'anticipazione. Il 6 febbraio all'Anificio. La settimana prossima saranno ospiti probabilmente qui al programma, se no sicuramente manderemo qualche loro pezzo. Con molto piacere. Allora mandiamo in onda. Sentiamo subito questo bellissimo promo. Vai col promo. Ce l'hai il bambino? Ce l'hai il nonno? Ce l'hai la figlia gravida? Ce l'hai con me? Revenant Quadre, porta i tuoi bambino a divertirvi. Le feste di compleanno del tuo figlio, la maggiorità gravida delle tue figlie, pensionamento del nonno. Matrimoni, matricidi, matrix, matrimonicidi. Revenants Quadret. Revenants Quadret. La cordialità e la simpatia al tuo servizio. I Have a Dream, che tutti insieme con tuo figlio, la tua figlia, il tuo nonno, con voi stessi, I Have a Dream. Revenant Quadret, Revenant Quadret, il sogno di tutte le generazioni unite. Revenant Quadret, the dream I am. Ce n'è, secondo me ce n'è. Non sanno fare, tra l'altro sono molto divertenti anche dal vivo. Insomma, andateli a vedere tutti quanti il 6 febbraio. Aspettate la prossima puntata in cui abbiamo un'intervista. Non vedo l'ora di averli. Proprio con loro. Non vedo l'ora di averli. E adesso è il momento della mia rubrica. La rubrica dei Darwin Awards. Ah, ok. Lo sai che la gente piace. Sì, eccola, sì, questa sigla. Sì. Parte la sigla subito. È bellissima. Allora, i Darwin Awards, voi sapete, è quel premio che viene dato alle persone che, a causa della loro stupidità, si eliminano dal pool genetico, migliorando la specie umana. Un premio fascista, nazista, antisemita, però è effettivamente bellissimo. Ci fanno un piccolo piacere. Sì, un piccolo piacere, grazie. La notizia di oggi è in Texas, 21 maggio 2004. Nota patria di folli, sì, diciamo. Texas, pazzi. Nascono pazzi a morire. Sì. E diciamo che il 21 maggio 2004, un po' vecchia, stiamo parlando di Michael, un alcolista. Sì. Abbiamo questo alcolista. Michael aveva voglia di bere. Ho paura. Aspetta. Ho già molta paura. Voleva sbronzare. L'ultimo alcolista della puntata scorsa ha fatto una fine terribile. Sì, latte e benzina aveva preso. Niente, Michael voleva bere, però a causa di un problema alla via orale, aveva deciso di bere tramite dal naso. No, niente dal naso. Tramite clistere. Mamma mia. Via rettale, visto allora, che non... Io ti giuro, sì? Ti giuro che una volta, sì? Voyager, programma di Roberto Giacobbo. Bellissimo. Roberto Giacobbo ha fatto una puntata sui Maya. Sì. E ha detto che i Maya facevano esattamente la stessa cosa. Prendevano alcol via rettale. Via rettale, sì. Veramente. Per stare male, probabilmente. Certo. Vedere draghi volanti. Certo, e così. I Maya non stavano mai bene, tra l'altro. Diciamo che hanno predetto la fine del mondo. Hanno anche costruito delle cose gigantesche. Sì. Quasi un mummolo. Sì, un mummolo dei Maya completamente, tra l'altro, nei fumi dell'alcol. Sì. Parliamo di Michael. Allora vuole ubriacarsi. Sì. Non può bere per un'intolleranza alimentare. Allora decide di prenderlo via clistere. E già questo. già per questo ti dovresti dire, ma che cazzo, Michael? E allora Michael. Dice, dai, cioè, Michael. Via culo, diciamo dai, via culo, Michael. Che è più bello. L'alcol, allora, Michael, l'alcol rettale. Cosa fa quel genio di Michael? Prende due bottiglie di sherry da un litro e mezzo. Quindi, raffinato. Sì, lo sherry. Raffinato. 3 litri di sherry, quindi. Sì. Lui che fa? Si prende quel suo bel tubo. Un cavallo. Bravissimo. Prende un bel tubo. Perché non è un clisterino. Devi usare un clistere fatto in casa. Prende un bel tubo, bello doppio. Se lo infila a mo' di coloscopia e comincia a bere. Ora tu sai, quando uno beve troppo comincia a più che a bere, a assimilare, al contrario, dal culo. E i Maya appunto stavano malissimo, perché va direttamente nel sangue. Tra l'altro tu sai che se uno beve troppo il corpo ti smette di far bere facendoti svenire. Esatto. Lui è svenuto. Mamma mia. Però gli è rimasta la coda, diciamo. Mamma così mia. E tu immagini la moglie che torna a casa e fa: Michael, l'amore, tesoro, apre la porta del garage e si ritrova un uomo a 90 con un cristiano nel culo, con due bottiglie di sherry, morto. È morto. Io lo ringrazio. Perché è così, perché è eccezionale. Uno che immagina la moglie che fiori, cioè che poveretta, che torna. No, come lo spiega la famiglia? Come è morto? Io Marco? Penso che alcune cose siano allucinanti. Cioè, sì. Andare a casa, andare soprattutto, non lo so, da un ferramenta e prenderti un metro di tubo perché stai pensando a questa cosa che devi fare, una cosa. Un partirettale. È allucinante, fare. Allucinante. Come lo giustifica la famiglia? Come è morto Michael? Soprattutto come lo si dice ai figli. Incidente a casa. Incidente domestico. Uno dei tanti incidenti domestici. No, per fortuna non è uno dei tanti, perché spero che non in molti. Magari non così. No, però capito, non puoi dire a tuo figlio: come è morto papà? È morto perché voleva farsi un cristallo di sherry. Sì, cioè, infatti. Non è il caso. Povero Michael e poveri figli. Povero Michael, che ha vinto il Darwin Awards 2009. Complimenti. E io dico proprio. Ha vinto giustamente. Se l'è guadagnato. Se l'è meritato. Sì, bravo Michael. Bravo, grazie per averti eliminato dalla faccia della terra, te e tutta la tua stupidità. E niente, Alessio, è finita. La puntata finisce qui ed è il momento dei saluti. Ehi, saluti, partiamo. Saluti con questa marcetta che mi dà quella carica, quella velocità. Innanzitutto, questa puntata è stata fatta con l'aiuto di diverse persone che noi dobbiamo assolutamente ringraziare, che ormai fanno parte dello staff. Chi sono? Le ringraziamo. Sì, ringraziamo però, lo staff. Parte di noi. Allora, ringraziamo Fabio Milano. Grazie, Eleonora Fabio. Minucci, che la nostra speaker. La nostra speaker. Grazie, quando serve una voce femminile, lei abbiamo lei. Ride prima un quarto d'ora, poi ci le mettiamo circa un'ora per un'anestesia e due paroline, poi riusciamo a fargli. La facciamo drogare prima di farla registrare. Luigi Palumbo. Saluta Luigi Palumbo. È rientrato nello staff vero. È rientrato sì. nello staff vero con un programma, tra l'altro, andato in onda ieri. Come si chiama il programma? Il programma si chiama L'Artiglio. Mi raccomando, ascoltatelo perché ce n'è. Ce molto n'è. Bello. Luigi Palumbo bello. Ha qualcosa. Giulio Pietrafesa che va, viene ogni tanto da qualche consiglio, sì, poi torna. Fate comparsate. Lui è libero però. È ciao libero. Giulio. E Andrea Policastro che ci sta dando una mano. Alle macchine. Alle, diciamo, macchine. Alle macchine. Alle Andrea macchine. Policastro, alle macchine, grazie Andrea. Poi, persone che ci contattano. Ah, allora, sì. A parte tutti i commenti di oggi, sì. Salutiamo Marina che ci ha fatto qualche critica però molto costruttiva. Sì, a me le critiche costruttive vanno bene, sì. Zell Eagle. Zell Eagle. Allora, Zell Eagle, tu ci segui, ci mandi un sacco di mail. Chi sei? Cioè, chi sei, Zell? Dacci un nome, un cognome, mandaci una mail al nostro indirizzo. Poi? No. Sì, vabbè, sì, è un nomignolo. Vorrei conoscerlo. Vabbè, ci magari... scrive sempre: siete grandi, siete grandi, siete grandi. Vabbè, saluti, grazie, grazie, grazie, grazie. Poi Giusy. Giusy, che dice Giusy? Giusy che ci scrive e ci consiglia un sito da cui prendere notizie divertenti per quanto riguarda leggi strane e particolari. Ah, che magari la prossima volta citiamo. Lei dice che stava guardando questo sito, ci ha pensato e quindi ci ha scritto. Ah, però noi la ringraziamo perché ci pensi, Giusy, ti vogliamo grazie, bene. Grazie che mi pensi, ti voglio bene, ti amo. Poi penso che prima o poi dobbiamo aprire una sorta di rubrica parallela delle persone che ci contattano sì. sulla chat di Facebook che io odio. E ci chiedono come al solito. No, non me lo dire, non me lo dire. Secondo te che no. cosa ci hanno chiesto? Ma chi sei? No, come ma chi sei? E io che vabbè. Cosa ho risposto secondo te? Una radio. Una radio. C'è scritto Radio 2010. Esatto. Banda di geni che ci contattate su Facebook. E le ho scritto vuoi lasciare un messaggio? E le ha scritto no grazie. Ah, voleva solo sapere informazioni. Chi siete? Radio, arrivederci, io ho scritto, buonasera. Ok, ok, ok. Giustamente. E poi mi ha chiesto, lei è stata molto furba questa volta, mi ha chiesto, avrà pensato, se sei una radio, come non fai ti a chiedo parlare? Di nuovo chi sei, ma ti chiedo, e di chi sei? È ah, stata bravissima. Bravissima, un colpo di genio. Radio 2010, cosa sei? Una radio? Il mio nome, perché la conosco, lei ha esordito con, ah, hai una radio, e con chi? E chi te l'ha data questa come radio? Come chi te l'ha data? Abbiamo comprata qua sotto. Esatto. Lei comunque è una persona eccezionale. Salutiamola. Ci scrive: scusa l'ignoranza, ma io non so proprio come si fondi una radio. Comunque è una cosa bella, credo. Bravi. Insomma, grazie, andate grazie. Avanti così. Lei annunzia, la salutiamo. Ciao, Annunzia. Siamo una radio. Siamo una radio. Cioè, non comunque. Tutti siamo una radio. Facciamo la radio. Facciamo la radio. Sì, dici siamo una radio. Annunzia, quanto ho capito, potrebbe pensare che noi siamo delle radio veramente. Quindi salutiamo le basta. Non è così. E vabbè, siamo una radio. Va bene. Poi dobbiamo salutare assolutamente le persone che ci hanno contattato su MSN. E sono. Quanto siamo buoni che salutiamo no, tutti. Ma, no, siamo no, proprio siamo bravissimi. Siamo grati. Cioè io mi prosto a queste cose. Alfredo Capuano della redazione grande Alfredo. Del notiziario italiano. Grande sicuramente Alfredo. A cui mandiamo una mail subito. Un saluto la Alfredo. Puntata. Roberto Porzio, che è uno dei Revenants, nonché autore dei nostri stacchetti. Che dovete ascoltare. E di una sigla che poi a breve riusciremo a mettere in onda. Dovete ascoltarci, ci dice, eh? Vogliamo i Revenants Quartet. Vogliamo i Revenants Quartet. Basta con le ciance, dateci Revenants Quartet, se no non avrete i nostri soldi. Sono d'accordo. Filmato un gruppo di fan. Roberto, sei tu. Cioè, ti conosciamo. Sappiamo. Su MSN ciao. C'è la tua foto brutta. Ciao, Roberto, un gruppo di fan. Roberto poi è un c'è gruppo di fan. Antonella, ricordate la puntata precedente? Sì, Antonella cerca un uomo. Ancora, ragazzi. Cerca un uomo, cerca l'amore. Ma non siamo radio porco che cerchiamo gli uomini. Radio porco. No, noi siamo una radio seria. Però, insomma, allora, ragazzi, Antonella è una bella ragazza. Antonella, cerca l'amore. Fai cerca così. L'amore. Mandaci... astenersi per di tempo chiamare Ore Pasti. Però fai una cosa, mandaci tutte le tue informazioni. Come sei, chi sei, cosa ti piace fare. E noi metteremo il tuo annuncio in radio. Perfetto. Che dici, perfetto, va bene così? Assolutamente, abbiamo finito. Abbiamo finito, abbiamo finito. Ah no, aspetta, dobbiamo salutare. Mamma mia, l'ho dimenticato, l'ho a dimenticato. Bassa voce lui perché sta dormendo adesso, A quest'ora sta dormendo perché quest'ora... domani mattina va a lavorare. Quindi lui sta dormendo, mica come noi, nulla facenti figli di papà. Allora Fabio, noi qui stiamo scherzando. A bassa voce, scusa. Quello sta dormendo, ti Fabio, che fa? Fabio, noi qui stiamo scherzando. Però, se tu veramente ci fai la cortesia di scriverci, di contattarci, noi ti ospitiamo qua. Non c'ha tempo per scriverci e contattarci. Capito, non è un figlio di papà, non ce la fa, non ce la fa. Fabio, ti aspettiamo. io no. E basta, finiamo così. Siate curiosi, mi raccomando. Saluto. Hai ragione, grazie, scusami. Salutiamo anche il nostro mitico DJ, Corrado. Buonanotte! Ah, buonanotte. Che bello, è proprio bello, mi si apre il cuore a sentirlo. Bello. E niente, salutiamo così. Siate curiosi, Radio 2010, mi sa setto lo stivale, Riccardo Cremona. Alessio Strazzullo. Ciao belli.